qualcuno all'ascolto. CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Attenzione 10, c'è qualcuno? Canale 10, c'è qualcuno? Ora è di splatter. Natalino, ci sei? Natalino, ci sei in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno? Telefono. Hola, attenzione canale 10, la città di Sassari, nord Sardegna, Italia, fa chiamate, si sintonizza l'ascolto, prego. 85. Ora attenzione canale 10. Hola, hola, hola, hola. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, hola, hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prove tecniche di trasmissione, cambio. Attenzione 10. Dica. Buongiorno. Ciao Gianni, buongiorno. E allora sì. Avanti dice Bisetti. No, veramente mi sono fatto stamattina presto, poi siamo andati a lavoro a partita a Gabriele, solo che l'hanno dovuta sospendere perché praticamente un attaccante è andato a finire contro il portiere, si sono fatti tutti due male e quindi abbiamo aspettato l'ambulanza e quant'altro e insomma, poi non abbiamo continuato. Sono cose che possono succedere. Io mi ricordo che una volta sono andato alla Sella Mosca a prendere due giocatori che alzandosi per fare canestro, questo giocatore si è sbattuto testa a testa con l'altro, sono tutti e due svenuti. Siamo andati a prenderli perché ci avevano i tagli in testa e tutto quanto. Con l'ambulanza a casa non ci stavano dentro tutti. Siamo arrivati lì e non ci stavano dentro, si sbucavano le gambe, le abbiamo dovuti far mettere con le gambe piegate. Anche questo è successo così. Entrambi sono battuti con la testa, tutti e due svenuti, sangue, insomma, sono fatti male perché erano anche in corsa e niente, preoccupazione e quant'altro. Però devo essere sincero, questi che sono qua, da una bretellina, no, da una bretellina, da una madonnina, la veloce, non sono tanto veloce a venire. Sì, c'è un corso sardo, se dice. No, ma poi sono venute altre persone, però. Noi abbiamo chiamato 118, ma cioè, è attaccata alla terra del campo della croce, e praticamente ci hanno messo più di 20 minuti a venire lì, sono di più. Strano, eh. Ma magari forse erano fuori per altri servizi e sono partiti direttamente da fuori, non sono partiti da lì. Perché a volte noi ci chiamavano mentre noi stavamo finendo il servizio e gli dicevamo altro, perché facevamo finendo il servizio, rifacendo la barella con le lenzuola pulite e e poi magari facevamo in tempo a fare la guarella e ci chiamavano di nuovo. Sì, infatti che vabbè, uno sono andato anche a quel paese perché risposta chiamare, ci avete chiamato in 20, ah scusa, se ti chiamano vuol dire che c'è un'urgenza, no? Vabbè. Ma il 118 praticamente interviene entro un quarto d'ora, dovrebbero essere lì. Però se sono lontani, se sono vicini, se il campo era quello della Tenoce, capo, ci metto due minuti. Non è quello, non è quello. Speriamo, bene, adesso aspettiamo le notizie del nostro portiere perché ha giocato lui per primo. Vediamo cosa esce fuori. Capo, mi dispiace che si sia interrotta la partita, dai. Vabbè, la rifaranno questa partita perché quando la interrompono con queste cose è normale che se non si può andare avanti la debbano interrompere. Certo. Poi vabbè, questi qua erano di numero, quindi hanno fatto anche un po' di strada praticamente per così. Vabbè, dai, speriamo bene comunque. Sì, speriamo non ci siamo fatti tanto male, dai. Quando ero in ricoverazione avevano portato due, tutti e due fratturati, giocando a pallone, si sono... questo ha messo il piede sopra il pallone, mi si è girato il piede, si è rotto un menisco, l'altro è caduto e si sono fratturati tutti e due. Questo invece ha preso una bella testata a fianco della testa del portiere, quindi si sente anche da lontano il rumore, capito? Una cosa, secondo me, c'è una fattura forte. Poi vabbè, già è risolvibile sicuramente, non è roba grave, là. Certo che non è piacevole sì, la gabbucciata. La testa è pericolosa già. Lo so. Ma speriamo bene, dai, che non sia una cosa da preoccuparsi. Sì, speriamo bene, dai. Anche perché il problema è questo ragazzo, anche da poco ha perso il padre, un mese fa circa, però sono due. Sono una famiglia un po' sfortunata, allora dopo Filippina, come ti si dice? E allora? E tu? E io sono a casa, dal divano a letto, non posso fare altro. Sono tutta la notte a dolori, senza dormire, mi sono assopito 10 minuti stamattina. Ma c'è tutta la notte che non dormo. Quindi è così, noi mi sono messo un attimino qua in radio a vedere un po', c'era un po' di propagazione, ma non avevo voglia di starci dietro, Capo, dai, io ti devo lasciare, mi hanno chiamato. Ci sentiamo, ti buona giornata e buona domenica. Ciao ciao. Sì, altrettanto, ciao. Corvo. Capo Pat pattuglia chiama Corvo. Capo pattuglia chiama Corvo. E tanto. Chi è avanti? Chi è avanti? Si accodomi. Oh, claro, beh. E allora mi sono riposato un poco. È in Dulire, al porto. No, sto facendo la stazione su. Ma, perché sei di riposo? Sì, da stamattina ero dietro. Il stracco, Zese. Ho trovato un quintale di piombo. Ma ti serve? No. Ma tu sei fatto a piombi però, eh? A piombi? A piombi da pesca? Sì, piombi da spiaggia. Ma io non faccio più surfing. C'era mio figlio tempo fa, li faceva, cioè, con la forma. E ne avevamo, ne ho trovato dimenticato un mezzo secchio. Un quintale peso. Sì, ho visto anche che vengono le forme, belle comunque, di tutti i modelli. Beh, in effetti, col costo vero, se vai a comprarli oggi costano comunque. È molto. Ho visto sui 150 grammi te li fa pagare un euro. Lo so, costano. Ho trovato anche qualche artificiale. Tutto impolverato, ma già è buono ancora. Un artificiale popper, quella roba lì? È una specie di... tipo un'anguilla, è una roba del genere, è un altro lungo, è uno sketch, sembra che sia 80 grammi, roba così. Io sono 80 grammi, sono la zaina, compreso il piombo guardiano, e sarà una limitazione di una guglia. No, sono quelli per il top water, per pesce grosso, ce l'amo poi alla fine. No, è un coso da lancio, Vabbè che oggi con i serra che ci abbiamo in giro, eccetera, eccetera, e barracuda. Non ce n'è più molti, no? E domani ci provo io di nuovo. Ma c'è caldo, sto facendo ancora caldo. Ieri sera mio cognato ne ha presi un bel po', Domani vediamo. Non erano grandi, comunque era un chilo e mezzo circa. Belli, un chilo e mezzo. Belli, adesso vediamo domani se si prende qualcosa, Rogero. Sembra che ha dato tempo buono. Sta tornando l'estate di nuovo. Lascia fare. E Antonello, non l'hai più visto? Lui è sempre lavorando, è giorno e notte. Sempre lavorando. Anche il panettiere sta facendo adesso, bubù. Il panettiere? Sì, sta lavorando anche di notte. E di notte si fa i lavori più tranquilli, più delicati, che non ci va nessuno a rompere le scatole, hai capito? Non si è sentito nessuno? No, vabbè, io l'ho acceso poco fa, ma lo so. Fino adesso non c'era nessuno. E io prima, due minuti prima di entrare tu. Contatta uno per una radio e mi risponde sul subito, e gli ho detto dammi il numero così ci parliamo per telefono, che è meglio. Sì, però mi devi parlare su WhatsApp. E perché? Telefono normale, no? No, non mi va il telefono normale, non mi va. Meglio su WhatsApp. Va bene, dammi il numero. Mi dà il numero. Invece di chiamarlo su WhatsApp l'ho chiamato su... normale, no? E alla chiamata mi risponde, il numero non è attivo, il numero non è attivo, il numero è in... mondo, devi mettermi nel telefono e ti contattano per eventuali video, informazioni, anche se molti sono, il 99% sono per di tempo in buco. Io lo metto sempre il numero visibile a tutti, perché lo devi nascondere, ragazzi? Sembra che ti nascondi, sembra che c'hai qualcosa che non va, capito? Esatto, esatto. E anche io faccio così. Lasciami il numero e da lì ti accorgi se sono persone comunque interessate veramente. Io sono sempre alla ricerca di quella radio che ti ho detto, C'è tanta roba vecchia in giro, ce la vogliono un sacco di soldi, no? E non si ripara, mi capisci? Difficile trovare una radio discreta al prezzo giusto, buone. Sono tutti esagerati. È vero. Ma il ricevitore sta dicendo? No. Un bibanda veicolare. Chiappia doppio RX, trasponder, eccetera. Ma ci sono di qualche del 2000 così buoni. E non è difficile trovare l'occasione, lo comprerò subito, come lo metto è sparito. E infatti dipende da quanto lo mettono. Se metti il prezzo di mercato quasi non te lo cagano, se scendi di 50 euro, da 50 euro a 100 euro non mi viene al volo. Aspetta, ma adesso scendo, sì. Aspetta che chiedo a uno che c'è su WhatsApp. Vediamo un po' che tanto mi deve spedire la roba a me. Vediamo un po' se ce l'ha. Adesso gli ho mandato un messaggio. Ho guardato sui vari mercatini. Non c'è nulla di una roba molto vecchia e a prezzi un po' esagerati. Poi ho controllato i vari rivenditori e manca a parlarne. No. Traduci tu a 2 lire, se gliela chiedi tu te la fanno 3 volte tanto. Cosa ci vuoi fare? Perché bisogna darli al prezzo di mercato e basta. Capito? Sì, uno sconto, si può dare la spedizione, però non si può scendere più di quello, anche perché poi si muove in rugoso, capito? Magari funziona male, se lo metti 100 euro in meno addirittura. Vabbè, non puoi mettere un apparecchio che c'ha più di 20 anni, gasta 200-300 euro su. Tu guarda la linea tipo i Kenwood. Secondo te vuol dire che il prezzo di mercato è quello, 3, 4, dipende dal modello, 300-400, però quando calerà sposteranno anche quello. Vabbè, ma quelli lì già sono pezzi grandi. Io parlo di un bibanda veicolare, roba così, ci sono radio che hanno più di 20 anni, cazzo, li vuole un sacco di dinari. Lo so, tipo 27-25, quelle robe lì. Lo so, che ci vuoi fare? E quella ne aveva 2, 27-25, vedi, ne aveva 2. Solo che... ma... mi è un bel piago d'usciato questo. E poi un casotto è comprare, infatti, spende un bel soldi, non sai se te ne mandano, boh, è un casino, No, no, bisogna andare sul sicuro, non mi butti più, no, basta, 2 fregature sarà che troppe. Ma se sai cos'è? Che almeno su Subito, anzi su Subito se guardi, ci sono le recensioni, no? Sicché c'è poco da scappare. Guardi le recensioni che gli hanno messo chi ha comprato da questo qua e valuti, capito? Poi lo contatti, ti fai dare il suo numero, lo chiami, ma senza guapi di tempo, cioè soldi, uno, se hai soldi alla mano, lo chiama, si mette d'accordo e si richiude la trattativa, senza che arrivi a fargli di tempo a Edu, capito? E ma non basta perché lo sai, ce l'avevo raccontato, ma è mani bruciato 650 euro, non è poco, no? Mi ha mandato il video, so chi è, chi non è, è addirittura un radioamatore, nella zona sua molto conosciuta, eppure gatto, ma mi ha colpito una testa. Perché quell'amico nostro in comune. Agito, non ti fidare, valli a prendere di persona, mi sembra la l'ha mandato lo gozo, l'ha fatto il bonifico. E l'ha incappettato subito, cazzo. Ma ci sarebbe da prenderli, cazzo, guai, che così una passata di giaffi, cazzo. C'è uno, per esempio, ha messo, mi sembra, il 991, il 7003, 500 euro, il 600 euro, il 991, mi pare. Cioè, vai due e fidati. Ma se gli ha detto a quell'amico nostro, sì, certo, possiamo anche, puoi venire anche di persona, così li vedi, li provi, o ti rendi imbaccato così, prende quello là, si fida e gli manda il bonifico. Oh, yeah. Comunque, cosa c'è? C'era i due, c'era metà con me che ha avuto un pacco da qui da Sassari, non mi dice il nome, però è maestro che è uno di Sassari qui, mi ha fatto il pacco. No. Non lo so, e chi è questo? Non te l'ha detto? C'è che cosa? Non gli ha mandato l'oggetto, che cosa? Era una specie di WhatsApp, una cosa per un'altra, capito? E lui in buona fede gli ha mandato subito quello che voleva, invece da Polito non ha mandato il suo. I di Sassari? Fatti dire chi è questo qua. Bacare dai. Glielo vedete, dimmi che no. È una cosa, dice che deve sbrigare lui, ma bisogna fare i tuoi, non voglio entrare nei tuoi discorsi, gli ho detto, per carità. Vabbè, tu lo stai facendo per aiutarlo. Magari lo conosci bene, se ne può parlare, restituirlo, tu. No. Via. Non è proprio niente che ti gonfia, in giro. E allora una cosa con la parola. Capito, io ti verso questo apparecchio, tu mi dai quello, magari poi ti do la differenza. Il guarda in buona fede, ha preso, gliel'ha mandato subito senza fargli arrivare prima il suo, e è rimasto fregato. No. La benedizione a noi. Sì, una cosa me l'ha detta, ha detto che OM è un old man. Però se non ti fa il nome, spero. E pensare che ha un paio di gambe, dice il giove. Ma non ne ho voglia di scendere, no, ne ho proprio voglia. Oh, sono stanco, c'ho mal di schi. Oh, casino era un sacco di gente. E hanno approfittato della bella giornata. Infatti, sì, solo da qua adesso il viaggio che sta tornando, 110 persone. Sì, un bel 27-25 mi andrebbe bene. Buonasera. E beh, cosa c'è? Illuminami. Ho sentito fuori dei fischi, capito? E allora volevo vedere chi era. E noi Gianmari, come va? No, sono io che ho fischiato comunque. Già va bene, tutto tranquillo. Ancora possiamo andare avanti, va bene, meglio, vai. E tu, tutto bene? Tutto bene. Tutto bene per il momento. Meglio così, va. Meglio così. Ma io stavo spazzolando. Mi sono fermato un attimino sul 10. E ho sentito a te. E beh, Giovanotti. Beh, ciao Tino, buonasera. Senti, buonasera. Ma sto scendendo di radio. Se ti ho risposto vuol dire che stai uscendo. Però non vedo. Aspetta un attimino che non vedo fare una cosa. Vabbè, continuate, mi sposto un attimo il canale. Ok, va bene. Avanti Giovanni. Ciao sì, buonasera. E allora fra poco ci siamo, allora non sa. Adesso vediamo quando decidono, perché hanno spostato la data. La città quando è? Ancora. Ma la TV accesa c'è in realtà. C'ho la TV accesa, forse si sente. Infatti sentivo più la TV che a te. Perché è molto sensibile questo microfono, è bassa la TV. Guarda un po' se si sentiva, perché contro il microfono, che è molto sensibile. E ce l'ho basso il microfono. Vai, va bene, adesso va bene, va. Va benissimo. Evidentemente questi microfono è così. Cos'era? Più 5? No, il più 4 è. C'ho anche il carnet più 3, quello grigio, c'ho. Ma la fanno bene la sala, fanno bene. Io non ne sto usando più preamplificato. C'ho il 5, il 4 e c'ho anche l'estadetta, però ma non li sto usando. Ne ho capito, no, questo è l'MB più 4 della ZG. Per comodità mi, se no anch'io avrei usato, perché c'ho il microfono di questo apparecchio che pesa un trono, è un pezzo di ferro dentro, battini lubisanti, boh, chissà perché l'hanno messo dalla casa, è così mi. E questo è il Superstar 3009, quello omologato, 40 canali. Ma va bene, si è andato bene, ha andato bene quel microfono, dai. No, io sto usando l'899, com'è la radio? Buona, Gio Maria, bellissima la radio. E anche questo è omologato. Ma vai a far bene, cazzo, non vedi quel re per frocciare. Ci sono, sono veramente qua che avevo un pazzino di inserito. Io ho capito, già sta dicendo bene poco fa lo stesso. Magari c'avevi forse il macchinco troppo alto e quindi uscivi bene ugualmente. Infatti io ho riconosciuto la modulazione, ma adesso è più alta. Tolta di modulazione, l'ho abbasso, non c'è problema. Aspetta, eccolo qua, l'ho abbassata. No, va bene, va benissimo la modulazione. No, perché stamane, ciao Giovanni, scusami, stavo giocando con la tastiera e ho premuto un tasto che mi dava il segnale del PVR, del TXR e quant'altro, delle stazionarie, e mi ho lasciato inserito, capito? Ho capito, anda bene Meda, no, lo stai facendo benissimo. Ciao Giovanni, ciao, e me, i cacchi. Ciao, sì, buonasera. Ma, sì, papà, sì. Già possiamo camminare ancora, grazie a Dio. Bene, va bene, così. E tu, sto bene in casa, sì? Sì, grazie a Dio, sì, dai. Grazie a Dio, sì, si tira avanti. Ah, benissimo, allora, tranquillo, vai. Guarda a te un attimino, la portante la sta. Aspetta oggi una giornata d'estate, Matta. Non sono uscito io, non mi sento tanto bene, quindi non sono uscito, quindi non so che giornata ha fatto. Vabbè, la giornata è FIFA, credimi. Sono andato al campo stamattina alla Croce e c'era schiumare, da caldo che c'era. Sì, così caldo stava facendo, boh. Ma andrà bene Meda, meglio così allora. Mi sembra che sta tornando io, l'estate lì, acqua da bere, non c'è una nuvola in giro oggi, Sì, stamattina è bellissimo lo stesso, c'era troppo caldo già la mattina presto, perché io ero lì già dalle 10:30, c'era caldo. Ieri pomeriggio lo stesso, dalle 3 è iniziato a fare questo caldo, porca miseria, c'è meno estate. Caldo sta facendo. Boh, se lo piove un macello, e lo sta piovendo dall'altra parte, ma qua non si sente nulla. Lui già arriverà anche qua. A voglia se arriva. Ce ne arriverà. No, sono andato dentro poco fa, fuori, mi hanno crepato le zanzare sotto il camper controllando una pompetta della benzina del gruppo che ha incorporato. Vedere se voleva cambiare o meno. Mi sono coricato sotto il capo, era pieno di zanzare, mi hanno massacrato. Con questo caldo le zanzare circolano ancora, finché non fa fresco, sono sempre in giro. Io tutte le volte che scendo in campagna, il pappattazzi, mi fanno le orecchie a pezzi. Ancora al suo periodo, dopodiché già moriranno anche loro. Speriamo bene, grazie. Va bene, là, devo chiedere che devo fare qualcosa. Ciao, ti stavo bene. Saluto di casa. Ciao Natale, riprendito, chiudo. Buon proseguimento, ciao Giomari, grazie per essere entrato a fare queste quattro chiacchiere. Ci sentiamo alle prossime, allora, avanti Tino. Va bene, ciao Giomari. Ci si ascolta, grazie dei saluti contraccambiati senza un bel dubbio. Ripeterò fuori un attimino, adesso sono seduto un attimo al computer e faccio la radio, ma era già accesa, ho alzato il volume più che altro, perché ho visto la portante e ce l'avete voi e ne ho approfittato a salutarvi. Ok, grazie per i saluti, anch'io adesso chiudo. Magari già rientro più tardi che devo fare roba al PC. Tranquillo, guarda. Ragazzi, siamo qua, alla prossima, ciao. Io rimango in Corriere. Ciao. ciao già. Ciao T. Mi sa che oggi ci siamo solo noi frequenti. Beh, guarda, io trovo. Prova non ti metto la qua ancora, scusa. Buona, bella. Ma col microfono è collegato? No. Allora, non ho avuto voglia di farlo, perché stavo guardando cosa sotto il camper che mi perdevano una pompetta della benzina del gruppo che è incorporato, no? E quindi stavo guardando il metodo più facile per poterlo riparare, quindi bisogna tagliare e mettere un pezzettino di coso, di tubicino, e devo far scettere. Volevo fare quello, ma vedi, mi sono entrato sotto il camper e mi hanno aggredito le zanzare. Ah, vero? Piano di zanzare? Già, che ce ne sono ancora. In campagna sì, la luce, l'acqua, magari se c'è qualche cosa di acqua, non lasciare mai acqua perché gli gatti da un... No, già lo so io, vabbè, in campagna le cose già si sanno. No, è proprio perché essendo alto il campo, quando c'è umidità, l'erba cresce duramente lì, capito? Quindi il posto più fresco è quello, quando c'è molto sole, e quindi è un rischio. Anche per i cavi le zanzare sono pericolose, perché fanno vedere le smaniosi, le zanzare, i papattacci fanno vedere le smaniosi e i cavi. Sì, già, lo so. No, vabbè, ma non è solo quello. Deve essere infetta la zanzara per le smanie. Più che altro, vabbè, il mio protetto, non è che... Sai, hai fatto l'iniezione? Sì, adesso richiamo il 20. No, io li sto mettendo quello antiparassitario con il pipetto e serve anche per la lesmaniosi. Non lo so. Diciamo che credo che sia più forte quello quando te lo fa internamente, perché c'avevo anch'io un ritrovo con un cane che si è ammalato, quindi ho deciso di fare la puntura. Sarà più specifico quello, perché questo che prendo io l'Avantis è praticamente per punture di zecche, pidocchi, pulci e zanzare. Sì, già lo conosco. Che bello, tanto non è il caso, eccomi qua. Sì, lo conosco, lo metto anche io, e me l'ha aggiunta. Però guarda, credimi, io sono un po' scettico anche sui vaccini del cane. Io ho avuto dei cani che per scelta non gliel'ho fatti, già dai primi mesi. Tu mi direi sarà un caso quello che vuoi, però mi ha passato di mille colori, però non si è mai ammalato di smania, non ha mai avuto malattie strane, invece quelli che facevo la puntura, che nella casa a farlo, facevo la puntura specifica per i vaccini, i vaccini che si fanno classici, sono tutti andati male. Io glielo faccio il vaccino per 2 anni, glielo faccio una volta per 2 anni, poi se 2 anni senza farlo e poi lo rifaccio. Quello non lo so neanche se è così. A me il veterinario, mio amico, mi ha detto guarda, non gliene fare. È un contro cosa per me, però sinceramente tu sai benissimo che quando gli facciamo i vaccini si mettono dei virus o se reagisce, poi però prendi per esempio gli zingari. E loro le sanno più di noi certe cose, però la prassi è quella lì e tutti la seguono. Se uno non le sa le cose, grazie a Dio non si è mai ammalato di cose gravi, dai, ha avuto un'otite una volta e basta, non è che ha avuto niente di più. Lo so, però essendo un cane vivendo in campagna sempre stato, diciamo, l'ho fatto bravo, l'ho fatto un po' più libero del tuo, si fanno tanti anticorpi in confronto a quello di città, perché essendo in città magari un pochino più protetto, sai, quando c'è freddo rimane in casa, calduccio, quello e quell'altro, e invece questi qua sono sempre allo stato brado, ecco. Vabbè. Sì, ma magari vivono meglio loro, perché il cane ha bisogno di libertà. Ma tu slegati li lasci? Allora, no, io sono liberi, non ho... Ah, te ne dico una, ieri sono andato a fare la spesa nello film, ma sono andato di sera, tra una cosa e l'altra, sono arrivato a casa, ho parcheggiato la macchina in retromarcia per scaricarmi la macchina, quindi ho aperto lo sportello, scaricato, ho fatto, la mia abitudine quando vado a fare la spesa è abbassare anche i sedili dietro, no, per comodità, per mettere l'acqua, per non stare lì a mettere la roba sotto una separata, quindi un ampio spazio per poter mettere la spesa. Ho fatto, finendo di togliere le cassette dell'acqua, la roba che c'era, lui prende, si è addormentato lì, è stato tutta la notte, stamattina ho trovato dentro il cofano. Allucinante. Magari voleva andare in giro, capito? Ma anche in giro tu li porti, te li porti quando vai in giro in casa? Tutti e due no, io porto solo a Rottweiler, dottore tedesco non è stato mai abituato neanche ad andare in macchina, quindi qua libero in campagna e non è mai uscito, invece il Rott è sempre con me anche quando sono in campo. Interessante che socializzi, che non bussi. Io al mio li devo mettere sempre la museruola, perché si è preso tutto il vizio che quando vanno a carezzarlo, se gente che non conosce li brica il naso. No, no, ma quello non l'ho voluto io, già, credimi, perché a parte che ha un carattere particolare il rosso, quindi se già inizia così, allora è un cane che devi tenere sempre guinzaglia. No, il mio invece è molto libero, io lo porto a manifestazione, lo porto al campo, l'ho portato a Sant'Orso, dove c'erano tutti i bambini che mio figlio aveva fatto, non mi ricordo se era una caccia al tesoro, no? Mi ha detto, va ci vieni con, va bene, tutti i bambini addosso, accarezzandolo, e lui che leccava tutti quanti. Infatti la maestra ha detto, va, se riesco a organizzare, se è possibile portarlo a scuola, niente, perché no? E poi invece, vabbè, non abbiamo organizzato, però è molto socievole il mio, capito? Non riesco a, cioè non voglio io a diventare cattivo, anche perché il cane, come tu sai, se ne accorge quando una persona è di animo cattivo o meno, capito? Quindi già da lui nasce, e poi me l'ha detto anche un amico mio che mi ha detto del Rottweiler, ha detto no, stai facendo benissimo, perché è un cane che dopo gli anni inizia a cambiare carattere, diventa più diffidente, tutto quanto, però riconosce la persona buona da quella cattiva. Vabbè. Rottweiler è un bel cane, però è temuto da molte persone perché dicono tutti che sono di razza cattiva come i pitbull, eccetera eccetera, però sempre dipende da come lo educhi. Io sono sempre di quel parere lì, che se tu lo educhi a morsicare, gli appendi la camera d'aria all'albero per farlo morsicare, eccetera, come fanno i misoviti a casa, gli attaccano le camere d'aria e rimangono attaccati, loro li tirano e non mollano, è allucinante. Sì, anche questo è così, però io glielo faccio in un modo diverso. Vabbè, ma quello serve a loro per le mandibole, capito? Per allenare le mandibole. Io, guarda, chiedimi qualche parola in casa, te li posso dare una ventina, ma tutti quanti rotti, perché non riesco a tenermene uno sano. Lui prende, va, gioca, puh, e lo scoppia. Allora poi viene da me, col pallone in bocca, rotto, vuole che io lo mantenga per tirare. C'era poco fa ero così con lui, in giardino, tirandolo, facendolo, ma al vizio di tirarlo verso di sé e poi di ruotare con la testa, capito? È una maniera tipo per tracciare la cosa, ce l'è presente? Sì, lo so, però tu li fai fare la stretta così alle camere d'aria, roba del genere, loro quando mordono stringono e non mollano, ci abituano a fare quello, capito? E diventano ancora più pericolosi, perché quando stringono non mollano più. Lo so già, lo so, però c'è anche, io gli impongo anche delle regole, nel senso che non è che comanda lui e stringe quanto vuole lui, io lo faccio giocare, quando gli dico lascia, lui deve mollare il pallone, perché sennò prende colpi, nel senso che gli faccio capire che comando io, non lui, no? Allora quando gli do questo ordine qua, gli molla il pallone e aspetta che glielo tiro. Bisogna avere il polso, perché se no ne approfittano i cani, se ne accorgono. Se tu sei molto bravo e cose, li fai fare tutto, la approfittano. E invece se ti imponi nelle cose, riesci a farli fare quello che vuoi. Guarda, io al momento, ti dico la verità, non posso dire niente a questo, perché è obbediente e poi, vabbè, ti ripeto, ci devi stare un pochino addosso, per carità, ma anche al mare tu pensa, poi 10 settimane fa ce l'avevo legato lì, c'era mio cugino che aveva il come si chiama, fast food, un camioncino per fare panini, questa roba qua, no? E dopo vedi che hai detto, lo leggo qua e poi vado a fare il bagno io, poi già me lo prendo. Lui era seduto che mi guardava, perché se non mi vede lui si alza e inizia a guardarmi, a cercarmi. Vabbè, ero in spiaggia, a un certo punto ci siamo coricati in spiaggia, non lo stavo più calcolando, e lui sempre in piedi, cioè non mi vedeva, no? È passato Nicolas, mio figlio, mi ha detto, Nicolas, slegato, dai, che viene in spiaggia, era già ora. L'ha slegato, è iniziato a correre, ma sembrava che stava correndo per attaccare una persona, già, con la bocca aperta, i denti si vedevano, quando mi salta addosso, perché ero lontano, qui stava correndo, sembrava un cavallo. A un certo punto tira una frenata davanti a me, si colca in faccia in alto e si mette così, con le quattro zampe, ma fa troppo ridere. Sì, sono simpatici. I cani, secondo me, meriterebbero di vivere di più per quello che ci danno, invece vivono troppo poco i cani. Lo so, è già appunto, quei 10 anni, 15 anni, poi dopodiché anche loro hanno vita corta, purtroppo così. Però guarda, credimi, mi faranno tante soddisfazioni, poi è un bimbo, è un bambino. E con i tuoi figli come si comporta? Con i miei figli, col piccolo soprattutto è protettivo, no? Col grande è un po' meno, perché il grande lo cerca bene, però ci gioca lo stesso. Tu pensi che col piccolo eravamo all'argentiera, era in spiaggia, era legato, però ti ripeto, noi ci guarda, quando andiamo in mare che non ci vede, oppure passa una persona e gli copre la visuale, lui si sposta per guardare dove sono, capito? A un certo punto Nicola si è allontanato un pochino e mi guardava e poi guardava lui, alla fine cosa c'è? L'ho sciolto, si butta in acqua, va da lui, fa 2 o 3 giri attorno, Nicola scusa, ciao, guarda, si è attaccato al collare e me l'ha portato in spiaggia. Vedi, ti sfugge. A me Marco una volta me l'ha scappato così, stavamo tutti parlando, lui stava giocando con le formine al mare. Questi ragazzi sono andati correndo, sai come fanno in greffa, si tuffano in acqua, lui ha visto quelli, ha preso, si è alzato e è andato in acqua, meno male che io ogni tanto davo lo sgollo, ho fatto il tempo in tempo a cavarmelo da lei. No, ma lui controlla tutto, adesso noi andiamo a Bosa, no, in camper, c'è una spiaggia dove, allora sono 3 spiagge praticamente, una è fatta di roccia piatta bianca, una è fatta subito poi, ho fatta una di ciotolame, e l'altra invece è fatta con la roccia e poi c'è un'insenatura di sabbia, e lì lo porto io, no, dove sono il ciotolame per farci il bagno, però è un po' scomodo, diciamo, per camminare, perché è un po' in discesa il ciotoli, sai, non è che ciotoli grandi, non viene tanto bene a camminare. Cioè, allora ho deciso di portarlo nelle rocce e c'è un pezzettino di sabbia che non dà fastidio agli altri, mi sono messo un ombrellone lì e lui si è seduto. Si è seduto e l'ho legato all'ombrellone, quanto può tenere l'ombrellone nelle rocce, quindi non è giusto per farti capire che qui quando vede che era al guinzaglio non fa a tirare, a fare, capito? Si è seduto, però intanto si alzava e guardava dove andavamo noi. Il cane così è attento. Ma se lo porti anche a Pattamola, nella spiaggia, voglia di correre, lui, solo il mio non mi fido, perché se lo molo quello parte, lo rubidisce, è disubbidiente. No, già l'ho portato, anzi per disabilità stasera avevo intenzione di portarlo e di uscire, però non eravamo in voglia, diciamo, dai, e quindi non siamo andati. Però già è obbediente, e poi è molto obbediente anche quando incontra dei cani, no? Io l'ho abituato, quando vedo dei cani, gli do l'ordine di sedersi e di stare fermo. Lui si siede e li guarda, però il cane se passa e non lo calcola, lui se lo guarda e basta. Se invece fa un segno tipo di abbagliare, di fare, va, si mette dritto e fa in difesa, capito? E così è il mio, così fa il mio. Il mio non abbaia e cose, ma se vede che il cane sta attaccando si gira di brutto. E vabbè, sono animali e quando vedono i rivali, perché loro misurano proprio la forza, lo fanno per misurare la forza per dare un po' di autorità a se stessi, capito? Lo fanno. Se con le femmine a caso ci gioca, li va di giocare.